7 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 7 novembre. Stamani a scuola, alla lezione di latino, ne è successa una che merita davvero d'essere raccontata. Renzo, che sta di posto accanto a me, aveva portato un po' di pece presa nel negozio di suo zio, che fa il calzolaio. E io, colto il momento che un compagno che davanti a noi si era alzato per andare a dir la lezione, ho steso ben bene questa pallottolina di pece nel posto dove sta a sedere questo ragazzo, che è Mario Betti, ma noi si chiama il Milordo, perché va vestito tutto per l'appunto e all'inglese, mentre invece ha sempre il collo e gli orecchi così sudici che pare proprio uno spazzaturaio travestito da signore. Naturalmente, quando è ritornato al suo posto non si è accorto di niente. Ma dopo un po' di tempo, la pece sulla quale stava a sedere gli si era riscaldata sotto e ha fatto presa sui calzoni, in modo che egli, nel muoversi e nel sentirsi tirare per di dietro, ha cominciato a borbottare e a smaniare. Il professore se ne è accorto. E allora tra Muscolo e il Milordo è avvenuta una scena da crepar dal ridere. Che c'è lì? Chi è il Betti? Ecco io, zitto, ma fermo! Ma io non posso, zitto e fermo! Guai se lo vedo muovere un muscolo! Ma scusi, io non posso... Non può star zitto né fermo! Allora esca dal suo posto! Ma io non posso! Vada fuori di scuola! Non posso! Ah! E con un ruggito Muscolo si è scagliato sul povero Milordo e afferratolo per un braccio lo ha tirato fuori del banco con l'intenzione di buttarlo fuori di scuola, ma l'ha lasciato subito perché ha sentito un gran crack e si è accorto che un pezzo dei calzoni di quel povero ragazzo era rimasto attaccato sul sedile. Muscolo è rimasto male, ma è rimasto peggio il Milordo e bisognava vederli tutte e due impappinate a guardarsi in faccia senza che nessun dei due si potesse spiegare l'accaduto. Una risata clamorosa è rimbombata nella classe e il professore, rovesciando su tutti la sua rabbia, ha urlato «Tutti fermi, tutti zitti, guai se...» Ma non ha avuto il coraggio di finire il suo solito ritornello. Eh sì, altro che Muscolo, tutta la scolaresca era a bocca spalancata ed era impossibile anche volendo che qualcuno si potesse frenare. Basta. Dopo, per questo fatto, è venuto il preside e per l'affare della pece siamo stati interrogati in 7 o 8 di noi altri, che stiamo nel banco dietro a quello del Milordo. Ma non ci sono state spiate, fortunatamente, e la cosa è rimasta lì. Però il preside, guardandomi fisso, ha detto «Stia attento chi è stato, che può essere che la paghi quando meno se l'aspetta!» Oggi il dottore ha sfasciato l'occhio all'avvocato Maralli e ha detto che domani potrà incominciare a tenere l'imposta della finestra un po' aperta, in modo che passi nella camera appena un filo di luce. Fine del 7 novembre.